Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, abbiamo parlato di scuola la settimana scorsa, oggi voglio riprendere un aspetto di quel tema, un aspetto particolare, quello del comportamento dei ragazzi e degli atteggiamenti che loro spesso dimostrano nei confronti della vita associata. E questa spia la si può ricavare da un atteggiamento particolare, da una pratica molto diffusa che è quella del copiare. Vi segnalo quindi il libro di Marcello Dei, che è un sociologo all'Università di Urbino, intitolato Ragazzi si copia, lezione di imbroglio nelle scuole italiane, pubblicato dal Mulino, 248 pagine, 16 euro. Questo è un saggio importante a mio parere, perché il copiare a scuola è certamente sintomo di una patologia molto più radicata nell'animo di molti ragazzi e non soltanto. Come nota nella sua prefazione infatti Ilvo Diamanti, in realtà in Italia copiare non è reato. E aggiunge Diamanti, lo studio di Dei dall'analisi di un fenomeno sociale si traduce in autoanalisi del tessuto civile, l'irresponsabilità del copiare che emerge dalla ricerca si collega direttamente alla nostra cultura civica e alla nostra tradizione storica e sociale. Se copiare, conclude Diamanti, non è considerato una colpa grave, infatti è anche perché in Italia le regole pubbliche sono considerate vincoli costrittivi. E nota Dei che nella scuola italiana sta crescendo l'attenzione verso il tema della disciplina, ma questa attenzione non va di pari passo l'attenzione per questa pratica, per estirpare la cattiva abitudine del copiare. E questo, spiega l'autore, perché l'obiettivo appunto di insistere sulla disciplina è quello di promuovere nella scuola una pratica minimale di buone maniere, scrive. Invece la correttezza e l'onestà nei compiti in classe e in genere nelle prove di valutazione non figurano nel pacchetto disciplina. Il divieto di imbrogliare non è sancito da nessuna parte. E allora il libro spiega perché si copia, soprattutto perché questa pratica lasci così indifferenti, come mai questa pratica scatti fin dalle primissime classi, anche ormai dalle scuole elementari, e come mai non susciti appunto alcuna emozione presso gli insegnanti. Il libro è amaro, ma a modo suo anche divertente in certi punti perché condotto sul campo, ricco di testimonianze e basato su approfondite analisi sociologiche. Ma facciamoci spiegare qualcosa di più dall'autore. Buongiorno a Marcello Dei. Buongiorno anche a lei e a tutti quanti ascoltano. Professor Dei, lei definisce il copiare nel suo libro come un caso tipico di comportamento guidato dall'interesse individuale immediato, nell'indifferenza o nell'ignoranza delle conseguenze che nel tempo produce sulla collettività. Insomma, un giudizio molto severo, mi sembra. Un atto di devianza, è come tutti gli atti di devianza, nella fattispecie di devianza giovanile, ha questa caratteristica, cioè l'incapacità di vedere o di non interessarsi agli effetti aggregati del proprio comportamento individuale. Io non pago il biglietto in treno, lo pagheranno gli altri. E poi si dirà anche io non vado a votare, andranno gli altri. E così avanti. Su questo tema lei sta studiando da molti anni. Ecco, nel corso di questo studio così approfondito e secondo me importante, ha notato qualche evoluzione? Sta cambiando qualche cosa nell'atteggiamento e anche nel giudizio che si dà su questa attività del copiare? Ma un discorso rigorosamente scientifico da due temi poi esigerebbe avere la disponibilità di dati assolutamente confrontabili. Ora io in sequenza posso dire, e non è solo un'impressione, anche se ripeto la rilevazione non è ineccepibile quantitativamente, tuttavia vedo che prende sempre più piede, estende a una capacità espansiva questo atteggiamento che io direi miope, cioè di incapacità già ereditata storicamente, è chiaro, ma applicata secondo le modalità della modernità, se mi si permette il bisticcio. In che senso? Voglio dire, c'è un fare disinvolto molto centrato sull'individuo che qualche anno fa, forse due o tre decenni addietro, era molto meno accentuato, questo è evidente, e questa crescita del resto del senso dell'individualità è accentuato in tutte le economie occidentali, avendo poi in ciascun paese una flessione particolare dovuta al retaggio storico diverso delle diverse esperienze dei vari paesi dell'Occidente. E infatti lei esamina queste diverse esperienze e giunge a delle conclusioni scoraggianti per l'Italia. Sì, devo dire che sono scoraggianti, ma mi viene in mente che è vero che in Italia il fenomeno è particolarmente preoccupante perché si aggiunge a un pool, a un deposito, a un sedimento di tradizioni che in qualche modo accentuano e modernizzano la furberia, il sotterfugio, che fanno parte di un bagaglio arcinoto, a tutti quanti gli italiani, e se ne parla molto in questi tempi. Quello che volevo farle notare, che è fuori testa un po', è che c'è una ricerca non più vecchia di 3 settimane che si può trovare facilmente su Google, da The Telegraph, un giornale inglese accreditato, e fa una sintesi di una ricerca molto importante su tutte le università della Gran Bretagna. Sono 80 università in cui si mostra che copiare nelle università è cresciuta di dismisura negli ultimi anni. Sono stati registrati, mi pare, 17.000 casi in queste 80 università in un anno, mentre il precedente erano qualche migliaio in meno. Se una persona vuole sincerarsi, può vedere come il fenomeno è anche universale. Dunque, se questa è una consolazione, beh, consoliamoci. Ecco, nel libro lei insiste molto sul comportamento degli insegnanti, che normalmente restano abbastanza indifferenti rispetto a questa pratica. Sì, è proprio vero. Bisogna considerare qual è la posizione dell'insegnante: estremamente fragile, insicura, è un ruolo incerto, si trova al centro di critiche, è molto difficile convivere con genitori che spesso rappresentano casi di, come dire, di genitorialità un po' paranoica, di genitori che sostengono i figli oltre qualsiasi misura di buonsenso, e che per l'insegnante questi sono degli avversari temibili, perché a loro volta i dirigenti scolastici non hanno molti strumenti di intervento a sedare questi eventuali conflitti che ci sono tra genitori e famiglie. Che c'entra con il copiare? Ma secondo me c'entra, la ricerca non si è estesa al comportamento e alle pratiche educative delle famiglie, questo non fa parte, ma si può sospettare attraverso quello che dicono gli insegnanti che i genitori non facciano grande attenzione a questo aspetto di educazione civica nei loro figli. Senta, il suo libro si conclude con un paio di esempi di codici d'onore dei liceali, che è un fenomeno nuovo, interessante. Adesso non vorrei apparire un po' lentone, ma come mai questi codici sono solo a nord, anzi solo a Milano? Fra l'altro uno è nel mio ex liceo. Sì, è una bella domanda. Sì, è Parini, è il professor Assiani, il caso più recente. E dato questa circostanza, so che non è la cosa, non si è estinta, cioè non ha carattere episodico, ma è stata confermata dal 2009, 2010, 2011, è tuttora in piedi, con l'assenso di quasi tutti i ragazzi. Perché non viene estesa? È una bella domanda. Mi sembra che la cosa è stata presa in seria considerazione dalla Bocconi, che è un'elite. Si comincia sempre dalla testa, dall'elite, per così dire, ispirandosi anche ai modelli più illustri, più accreditati, come quella degli Stati Uniti d'America, dove il sistema d'onore è ormai una pratica che è in piedi da molto tempo, moltissimo. Bene, grazie a Marcello Dei, autore di Ragazzi si copia. Buona domenica. Altrettanto a lei. Evidentemente, ci ha detto Marcello Dei, il tema del copiare non lascia scattare la vergogna. E allora, proprio su questa parola, vi segnalo un libro che ha scritto Luigi Anolli, che è uno psicologo della cultura Milano Bicocca. È un libro che viene ripresentato, è molto aggiornato rispetto alla prima versione, si intitola appunto La vergogna, quando la nostra immagine va in frantumi, pubblicato dal Mulino, 138 pagine, 9,80 euro. Di questo atteggiamento l'autore esplora il vasto territorio psicologico e quindi vuole esaminare Anolli che cosa voglia dire vergogna, come questa si distingua da altre situazioni, quali l'imbarazzo, la colpa, come si esprima e quale sia il peso di questa espressione, di questa manifestazione nelle varie culture. Per la verità, spiega Anolli, da un certo punto di vista il timore della vergogna è aumentato. Egli infatti ci ricorda che viviamo ormai nella società dell'immagine. Aggiunge: ciò che conta è apparire, il look, diventare famosi e celebri, spesso non contano i modi. Questo apprimato dell'apparire sull'essere sembra sia diventato oggi una condizione vincolante e quindi naturalmente siamo tutti terrorizzati dal perdere questa immagine, dall'aver graffiato o scalfita questa immagine, e da qui la diffusione della vergogna, che spesso però si diffonde per dei comportamenti che sono magari molto meno importanti di altri comportamenti che viceversa non suscitano alcuna emozione. Per chi invece non vuol copiare e quindi vuole fugare i propri dubbi, soprattutto di carattere grammaticale e sintattico, segnalo il libro di Adriano Colombo, che è il segretario generale del GISCE, il gruppo di intervento e di studio nel campo dell'educazione linguistica. Il libro si intitola A me, mi, dubbi, errori, correzioni nell'italiano scritto, pubblicato da Franco Angeli, 144 pagine, 17 euro. E nel libro troviamo un'analisi su errori, alcuni anche perdonati dall'autore, che ci fanno capire anche come fatta la nostra lingua. lingua. Il libro però è anche e soprattutto una guida per gli insegnanti per correggere i compiti. Colombo ricorda la tesi molto popolare secondo la quale non si sa più scrivere e fa alcune correzioni a questa tesi. In fondo ci ricorda Colombo, la scuola oggi non è più una scuola di elite e quindi rispetto ai tempi in cui soltanto una minima percentuale degli italiani sapevano scrivere e parlare bene, probabilmente oggi la diffusione della lingua è molto maggiore, molto migliore di quanto non fosse tanti anni fa, soprattutto alla luce del fatto che c'è una forte immigrazione che naturalmente rende sempre più difficile anche l'insegnamento della lingua italiana. Chi invece vuole ripassare la matematica potrà leggere utilmente un classico di questa scienza, La matematica da Pitagora a Newton di Lucio Lombardo Radice, che fu un grande scienziato, grande insegnante, grande divulgatore di matematica. Il libro è pubblicato da Muzio, 136 pagine, 13 euro, e si tratta della riedizione appunto di un classico del 1971. Un libro, avverte l'autore, che non può leggere chi è pigro di mente, perché, scrive, chi non prova gioia nel far lavorare il suo cervello è meglio che non cominci neppure a leggere questo libro. Ma nonostante questo avvertimento severo, in realtà il classico è veramente scorrevole e divulgativo e ci può aiutare a scoprire i segreti di una disciplina che ha segnato e determinato lo sviluppo della scienza. Più recente è il libro L'equazione da un milione di dollari e altri enigmi matematici che rifiutano di lasciarsi risolvere di Marcus du Sautoir. Il libro è pubblicato da Rizzoli, 368 pagine, 19,50 euro, ed è tradotto da Carlo Capararo e Daniele Didero. Qui la matematica è presentata attraverso una serie di enigmi tuttora irrisolti che chiudono altrettanti capitoli dedicati ad alcuni aspetti della matematica. Naturalmente possiamo provarci tutti a risolvere questi enigmi. Se ci riuscissimo vinceremmo un milione di dollari, perché questa è l'apposta che è stata messa in gioco da un ricco signore americano che appunto investe questa cifra per chi saprà risolvere questi enigmi. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Visto che abbiamo parlato di scuole e di ragazzi, continuiamo ad affrontare questo tema, il tema dei giovani. Vediamo in alcune categorie questi ragazzi spesso misteriosi e ne voglio presentare un segmento particolare, uno dei segmenti più nuovi e più misteriosi, forse quello dei nerd. Che cosa significa nerd? Ce lo spiega il giornalista americano Benjamin Nugent con Storia naturale dei nerd, i ragazzi con gli occhiali che stanno cambiando il mondo, è pubblicato da ISBN, 240 pagine, 19,90 euro, ed è tradotto da Federica Aceto. All'interno dei nerd possiamo trovare, secondo l'autore, due categorie. Gli individui che esprimono il proprio intellettualismo in modo quasi meccanico e la cui inettitudine sociale ha qualche cosa di altrettanto meccanico, spiega l'autore, nerd che spesso danno l'impressione, non sempre sgradevole, di essere simili a macchine. E poi l'altra categoria, gli individui che sono socialmente ai margini. Le due categorie sono accomunate da alcuni sintomi: gli occhiali dall'aspetto indistruttibile pure sempre mezzi rotti, le coscette nude che escono da sotto i bermuda con le pants, la risata infantile, la tendenza a prendersi molto sul serio. È una razza questa molto americana, accomunata dalla passione per i videogame, per i gadget, per i fumetti, per le spade finte, per i giochi di ruolo. Questo non lo sapevo. Ma come mai questa passione che sublimano nelle regole della società per l'anacronismo creativo o regno di Kaid? Sentiamo la spiegazione dal libro sui nerd. Il mondo feudale della SCA, società per l'anacronismo creativo, è progettato in modo da somigliare a un'azienda in cui le regole e la meritocrazia sono seguite più strettamente di quanto non accada nella vita reale. Nei combattimenti con le spade in costume medievale, i nerd hanno scoperto un mondo regolato da un ordine moderno, igienico, sicuro, in cui si dà molta importanza alla cortesia, dove vige un codice d'abbigliamento uniforme, è un sistema di classe che dà a tutti la possibilità di raggiungere le più alte sfere della nobiltà. È un tipo diverso di utopia rispetto a quello immaginato dagli hippie, perché invece di creare una tribù di individui senza regole precise, crea una piramide sociale ben definita, dove è possibile muoversi verso l'alto, ma seguendo delle regole ferree. Come i massoni che si riuniscono in templi e riconoscono il passaggio di grado secondo gerarchie strutturate con tanto di fasce e rituali ad hoc, la SCA, la società per l'anacronismo creativo, offre una via di fuga dallo stile di vita troppo casual che ha fatto seguito alla Seconda Guerra Mondiale. Non c'è bisogno di essere casual, perché a tutti viene offerta l'opportunità di darsi delle arie. A proposito di gadget e di elettronica, insomma, dell'epoca nella quale viviamo, vi segnalo il libro L'algoritmo al potere, vita quotidiana ai tempi di Google. L'autore è Francesco Antinucci, che è direttore di ricerca all'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR. Il libro è pubblicato dalla Terza, 118 pagine, 8,50 euro. È una nuova edizione di un libro che parte dal nesso tra innovazione tecnologica e sviluppo, un nesso che non è automatico e che molto spesso dipende anche dal caso e che quindi rende molto difficile, nonostante quello che si pensi, prevedere il futuro. E allora, se è tutto così difficile, come si può scegliere, questo è uno dei temi del libro, l'innovazione che può rivelarsi utile per tutto il genere umano? Sentiamo l'autore che spiegazione ci dà. La creatività che genera la vera innovazione è per sua natura imprevedibile, dunque non può essere promossa, dato che non può essere indirizzata, perché non si saprebbe verso cosa indirizzarla. Bisogna fare un'altra cosa, lasciare che la creatività operi secondo le sue misteriose vie, penetrando nei più improbabili meandri e, per così dire, germogli. È a questo punto che bisogna intervenire per assicurare che il germoglio possa attecchire, svilupparsi e crescere. In altri termini, per continuare con la metafora botanica, non si può intervenire sulla semina, si può e si deve intervenire sull'esile e spontaneo primo frutto. E qui, invece, bisogna intervenire con forza e decisione, al contrario di quanto si tenda a pensare comunemente. È infatti piuttosto diffusa l'idea che la buona, vera, grande innovazione imporrà se stessa con la sola forza della sua potenza innovatrice. L'innovazione è inizialmente un germoglio, una potenzialità, tanto più difficile da tradurre in atto quanto più è nuova e diversa da ciò che si è fatto fino a quel momento. Questo accade perché non va a occupare una nicchia già esistente soppiantando altri. Magari soppianterà anche altri, ma come effetto derivato, non perché compete con le stesse armi, ma ne scava una per sé, che ha la potenzialità di diventare enorme. Perché questo accada, però, ha di solito bisogno di un periodo abbastanza lungo di sostegno. E questo significa una cosa sola: un lungo periodo di forte sostegno finanziario senza ritorni. È singolare che questa caratteristica, comune a quasi tutte le grandi innovazioni, venga poi rimossa dopo il raggiungimento del successo. Forse, ipotizzo, per accreditare la favola che tanto piace che il genio e la bravura trionfano da soli, senza alcun bisogno del vil denaro. È vero esattamente l'opposto. Insomma, il computer come guida della propria vita. Allora vi segnalo un altro libro su questo tema di uno studioso canadese, Don Tapscott, Net Generation, è pubblicato da Franco Angeli, 316 pagine, 39 euro, ed è tradotto da Elisa Tomassucci. Come nota Mario Gerosa nella sua prefazione, i nomadi digitali, così si chiamano gli appartenenti a questa generazione, costituiscono già un mondo a sé, con una identità molto forte. E scrive Gerosa, questa generazione punta soprattutto sull'esperienza, dove altri propendevano per la contemplazione, i membri di questa generazione scelgono la continua disamina, l'interrotta confutazione di tutto. E l'autore caratterizza con 8 norme il profilo di questi ragazzi che li distingue dai loro genitori. 8 norme che sono la libertà, la personalizzazione, la valutazione, l'integrità, la collaborazione, il divertimento, la velocità e l'innovazione. E l'adesione a questo sistema di valori, diremmo noi, si riflette, secondo l'autore, anche in un diverso approccio alla politica che sta già trasformando, scrive, lo stile delle campagne presidenziali negli Stati Uniti e descrive appunto nel libro come è avvenuta questa trasformazione. Una trasformazione che, conclude, potrà anche cambiare la natura stessa della democrazia. Il confettino. Vi segnalo, per rimanere sul tema del quale ho parlato in questa seconda parte, un libro in cui ritorna Geronimo Stilton, C'è un pirata in internet, è pubblicato da PM assieme a Telecom, che ha curato un vero e proprio manuale di internet che completa questo libro rivolto appunto alla scoperta di internet e alla sua gestione responsabile. Il libro 180 pagine costa 15,50 euro. E con questo ringrazio Claudia Carusi in redazione e Fabio Cantadori in regia, vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro buona domenica e vi do appuntamento alla settimana prossima.